Elog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Venire ucciso a colpi di pistola per un tamponamento. Succede anche questo a Roma, via Carlo Tranfo, quartiere San Basilio, periferia est della capitale. Chi è della zona chiama questa parte del quartiere le case occupate. Sono le 18, Maurizio ha letto, 31 anni, sulla sua auto, praticamente sotto casa. Un tamponamento con la macchina sulla quale sono Luciano Coppi, 53 anni, guardia giurata, e il figlio Moreno, 18enne. Vola qualche insulto, ma tutto finisce lì. Padre e figlio se ne vanno, poi però tornano indietro, ritrovano a letto, i due ragazzi riprendono a discutere, questa volta il 31enne ferisce il giovane Coppi al volto con un coltello, il padre del ragazzo reagisce sparando dal letto che si sta allontanando, il proiettile lo colpisce alla nuca. Molti vedono tutto, vedono Coppi allontanarsi e lo seguono mentre l'ambulanza del 118 arriva in via Tranfo. La tensione è alta. Al questo punto è soltanto l'ultimo episodio di cronaca, anche se molto cruento. Una guardia giurata spara in testa a un'altra persona che era entrato in lite con il figlio per un problema di traffico, gli aveva dato una coltellata in faccia. La popolazione del quartiere scende in piazza, comincia a prendere a sassate tutti. Insomma, qualcosa di paradossale proprio il giorno che il neosindaco di Roma saliva, arrancava in bicicletta al Campidoglio. Ma ha poco a che fare la collocazione geografica, la circostanza, è solo uno spunto. Perché ci stiamo rendendo conto, ma l'abbiamo parlato più volte con esperti del settore, ci hanno dato numeri, ci hanno dato cifre, ci hanno dato possibili motivazioni perché ci sia un così alto livello di rissosità al volante. Non credo che accada in altri paesi. Da noi proprio così, da noi soprattutto in certe città, poi voi me lo direte chiamando oggi all'800240024, qual è l'esperienza personale, individuale che avete avuto dell'alto tasso di aggressività delle persone al volante. Vi racconto un paio di piccolissimi episodi. Proprio ieri stavo tornando a casa, quartiere Prati, quartiere tranquillo, vedo c'è una macchina in doppia fila parcheggiata. Come io la sorpasso comincia a suonarmi il clacson. Devo dire, sento un piccolo rumore, non capisco perché, ero a debita distanza. Presuppongo, immagino che siano i soti che poi ti fermano, vogliono che gli dai soldi per lo specchietto. Infatti mi accostano due personaggi un po' minacciosi che mi dicono si fermi, dico, scusate, c'è dei problemi con lo specchietto? Dico, non c'è nessun problema, se volete chiamiamo subito i vigili e vediamo. Questi hanno capito che avevo capito. E allora dicono, ma lei ci ha sorpassato in maniera maleducata. E dico, ma che vuol dire? Deve chiederci scusa perché ci ha sorpassato in maniera maleducata. Siccome erano piuttosto minacciosi, belli grossi, dovevo andare anche a prendere i figli e poi non c'avevo nessuna voglia, così si scusate, evidentemente avevo sorpassato in maniera maleducata. E ho evitato, ma se fossi andato avanti, se avessi insistito, se avessi messo mano al blocca sterzo a forma di mazza da baseball, non so perché, mi piaceva perché era giallo, bello colorato, perché vendono dei blocca sterzo che sembrano una mazza da baseball, con una bellissima impugnatura, belli, pesanti, sembrano fatti apposta per darti la tentazione di reagire quando qualcuno è aggressivo con te. Altro episodio, il giorno prima, un tassista nel consueto tragitto in cui bisogna parlare, chiacchierare, perché sennò ci si annoia, mi racconta di un ragazzo che lo aveva sorpassato in maniera maleducata anche questa volta, poi qual è l'etichetta del sorpasso, ma dovrete spiegare, facendogli pure dei gesti scorretti. Naturalmente l'ha inseguito al semaforo, è sceso, ha fermato la macchina, è andato a bussargli al vetro del finestrino, questo ha tirato sul finestrino, ha continuato a fargli corna, segno dello sputo, insomma tutte le possibili ignominie, mimiche che si possono fare. E allora mi ha raccontato, dice, sai che ho fatto? Io comincio a prendere calcio e pugni, gli ho ridotto la portiera, la macchina era nuova, in situazione penosa, però mi sono sfogato. Quello dentro continuava a fare gestacce, comunque adesso va a pagarsi un bel conto di carrozziere. Ecco, ma per quale meccanismo ci scateniamo in questa furia bestiale quando siamo dentro l'automobile? Quando magari siamo degli agnellini seduti al ristorante, al tavolo della nostra scrivania, quando camminiamo per strada. Qual è la corazza da supereroe che ci allucina l'automobile che abbiamo intorno per cui diventiamo così cattivi? Io nel lancio di questa trasmissione sono stato volutamente provocatorio, ho detto, ma quale armamentario vi portate addosso quando andate in macchina? Perché questo ragazzo va al coltello? Non voglio entrare nello specifico, la situazione è marginale, se chiamano quel quartiere il quartiere delle case occupate, evidentemente ci saranno anche delle tensioni di tipo sociale, ma è normale vedere persone che nell'automobile hanno attrezzi che sembrano fatti apposta per essere trasformati in oggetti contundenti. Beh, voi come la pensate? Quali sono soprattutto le esperienze che avete avuto di persone che apparentemente normali al volante si trasformavano improvvisamente in pericolosissimi e quasi assassini? Buongiorno Nicoletti, volevo dire che gli automobilisti italiani sono i più indisciplinati e maleducati del mondo. Ciao Nicoletti, perché quando ad esempio prendiamo un mezzo pubblico e sbaglio calpestiamo i piedi di qualcuno che ci sta vicino, ci prostriamo in scuse amicamente di varia natura e invece tra un'auto e un'auto, quindi a 2 mm di lamina di spessore, ci si manda a fanculo con una facilità incredibile. Queste erano voci del nostro pubblico di una precedente trasmissione in cui abbiamo toccato questo argomento. Questa mattina è anche all'attenzione delle cronache, perché si parla, si ragiona, c'è stato un momento di guerriglia urbana, gente in tenuta antisommossa, ma la ragione di tutto è un banalissimo dissidio per questioni di precedenza, di traffico, di educazione stradale, ma secondo un codice che non è quello della strada regolarmente approvato dalle autorità competenti, ma una sorta di codice d'onore, di etichetta non scritta, di legge della giungla, sembra quasi un codice mafioso, quello a cui bisogna attenersi per non incorrere nelle ire dei violenti da volante. Francesco, buongiorno. Francesco, caduto Francesco. Gabriele. Sì, mi sente? Sì. Ah, io volevo raccontare, cioè avrei tanti aneddoti da raccontare. Li racconti, noi siamo questa mattina per fare un inventario degli episodi, perché poi le cifre lasciano il tempo che trovano. Vorrei proprio sentire dalla viva voce degli ascoltatori quali sono gli episodi. Allora, io riconosco di essere una persona che si nervosisce in macchina, mai da scendere e fare a botte, però gestacci sì. E quali sono i gesti? I gesti tipici? Ma mani, con le mani. Sì, ma insomma. Tipo il dito medio, le corna? No, il dito medio non mi appartiene più. Le corna? Che mimano una posizione di, come si può dire, sottomissione sessuale. Un puppa, non so se posso fare questa parola. Ah, puppa, sì, cioè la mano sinistra, non quella sullo sterzo, con le dita raccolte a grappolo, simula un movimento oscillatorio verso il basso che dovrebbe accompagnare la testa dell'altro automobilista a compiere un atto di sottomissione orale nei confronti del guidatore. L'ho spiegato. Esatto, poi una volta successe che un muratore scese... Si chiama il puppa questo, il puppa. Sì. Meno, io lo chiamo così. Il gesto del puppa, va bene. Scese dalla macchina un muratore per picchiarmi. E lei aveva fatto il puppa al muratore? Esatto. Sì, l'aveva puppato. Sì. La strada, e questo è sceso con la mazzuola? Più o meno, no, aveva però due bei bicipiti. Premetto che sono alto 2 metri e vado anch'io in palestra, quindi non sono sceso anch'io perché comunque gli ho detto, guarda, scusi. E come ha operato il muratore nei confronti della sua macchina? No, niente. Ha chiesto scusa? La macchina, di ammazzarmi, eccetera. Tutto per un semplice puppa. Sì, ma è tutto rimasto nella notte. Dopo questa esperienza. Un altro episodio, sì. Però. Una volta andando in superstrada, nella corsia di sorpasso c'era una macchina la sera, anzi di notte, diciamo, che andava a 60 all'ora nella corsia di sorpasso. Dopo un po' che sfanalavo per sorpassarla nella superstrada, l'ho sorpassata a destra. E questo è scattato e mi è stato alle calcagna per 10 km. Spanalandomi, mettendo la freccia perché voleva... È il cosiddetto sorpasso maleducato, come è successo a me ieri, sarebbe stato. No, Ma scusi, ma quante corsie era la strada? Due corsie. È una superstrada, sulla Versilia, sì. Però era chiaramente una persona che voleva attaccare briga. Non mi sono fermato, ripeto che sono alto 2 metri, quindi avrei anche potuto, però... Vabbè, se alti 2 metri, se poi uno scende armato, le serve poco. Poi non vale la pena, secondo me, non lo so. Però ora, visto che lavoro nel giardino, mi porto dietro bastoni, armati. Ecco come è attrezzato? Questa è la vera domanda. E la vera... Io ho quel blocco a sterzo giallo, ma l'ho preso perché era giallo. Poi mi sono accorto che in realtà è una bella impugnatura. Dico, lo tengo lontano perché la tentazione poi di usarlo sarebbe in momenti in cui scatta l'embolo dell'ira. Lei invece come si attrezza in macchina? Ma io ho un bastone di 1 m, 1 m 10 e un pennato per tagliare i rami che fanno potati. C'è una roncola praticamente. Non lo so, io chiamo pennato. Sì, vabbè, però... quello a forma, diciamo, arcuata. Sì, esatto. Ma c'è anche, diciamo, l'ascia nel retro o è soltanto da una parte il taglio? No, c'è anche la motosega, per cui volendo... E la motosega dove la tiene? Dietro nel bagagliaio? Paura, perché lavoro nel giardino. Sì, ma la motosega deve metterla in moto, metta che non parte, come fa? Sì, infatti è l'ultima razza, in caso volessi infierire dopo che ho già l'ha lavorato di roncola, lo finisce con la motosega. Va bene, benissimo, grazie Gabriele. Fabio. Buongiorno Nicoletti. Sì. Senta, io volevo dire, io sono un tassista di Genova, quindi gliene potrei raccontare migliaia. Lei come ha apprezzato nel suo taxi? Ma guardi, cosa vuole? Noi come tutti, diciamo, chi ha tubi di plastica, io ho un bastone di legno, ma sono sincero, guardi, io non l'ho mai usato. Ma dove lo tiene il bastone di legno? Lo tengo sotto il sedile, cosa ma vuole? Quanto però... più o meno che diametro ha? Saranno 2,5 centimetri, da legno stagionato, spero. È un bel legno, ormai è stagionato, sì. Ormai è stato stagionato dall'età. Però non l'ha mai usato, non l'ha mai usato. Non l'ho mai usato, perché guardi, dall'esperienza, purtroppo, l'auto come le moto, allora, se uno si scontra in un marciapiede... Beh, in moto stanno meglio, in moto c'hanno la catena blocca sterzo che sì, però sai cosa c'è? Io dico una cosa, cambiando un attimo leggermente strada. Nel senso, quando uno si dà una spallata in un marciapiede e si chiede scusa, purtroppo la moto e la macchina diventano un prolungamento del proprio corpo, una cosa inviolabile, quasi intoccabile. È come se tocchino la sua carne, se sfiorano sì, la sua macchina. È peggio, secondo me peggio. È una cosa proprio... Io ce ne rendiamo conto, io lavorando tutto il giorno in mezzo al traffico, te ne rendi conto di quello che succede proprio. Ma mi dica qualche altro episodio legato appunto all'uso di corpi contundenti. Ma guardi, gente che magari ti si affianca al finestrino col cacciavite, col paglierino, cioè è così. Cioè, io, guardi, purtroppo, le dico purtroppo perché mi verrebbe voglia di scendere e massacrarli, però con l'esperienza... Ma no, il bastone ce l'ha lì pronto. Sì, ma non l'ho mai usato. Le dico, ma mai provato a estrarlo? Perché non credo sia facilissimo da sotto il sedile. No, ma estrarlo ho provato qualche volta, ma alla fine comunque poi nel senso... Forse è meglio tenerlo dietro come la spada di Kill Bill per farsi capire. Sì, infatti. Lo estrae meglio. Guardi, come si dice, bisogna passare da scemi, forse è meglio, nel senso, bisogna sempre meglio passare da... Beh, io ieri infatti mi hanno detto, scusami, chiedi scusa per il sorpasso maleducato. Sì, dico, scusate, figura, mai no, più ma lo farò. Sì, sarebbe bello agire come l'ispettore Callaghan, tirare fuori la bella 356. Sì, vabbè, ma per così poco. Datemi almeno dei motivi più validi per farlo. Sì, ho capito, però dipende da uno, in un momento lo prendono nella giornata, capisci? Se lo prendono nel momento sbagliato e quando poi si leggono le cronache al telegiornale, sui giornali di gente che vengono... Vabbè, comunque Fabio al bastone di legno. Anna, buongiorno. Buongiorno. Lei cosa porta in macchina? Io ho il Bullock, però essendo vegetariana, non mangiando carne rossa, sono molto tranquilla. Però il Bullock ce lo porta dietro. E ce l'ho perché è una pandina, e se me la prendono allora mi sono attrezzata così. Vale più il Bullock che la panda, forse? No. Ma io... sì, è vero, sì, è vero. Comunque lei il Bullock dove lo tiene? A portata di mano, sotto il sedile? Sotto il sedile, ma io avevo mandato il messaggio a proposito del Canada. Sì, in Canada non c'è l'inciviltà che c'è da noi, però è sufficiente dire fuck o fare un gesto, siccome lì la polizia gira, cioè in borghese, ti multano anche solo per un gesto di questo tipo, quindi... è considerato reato, anche il puppa, questi gesti che stanno dicendo. Sì. E da noi, a parte che... Insomma, diciamo che polizia municipale o quant'altro... Quindi lei comunque tiene il Bullock, ma si trova tranquilla perché non mangiando carne rossa non è aggressivo. Sì, sì, la mia maestra di yoga, adesso io non ho scientificamente non le certo, so dire, pare che sì. La carne rossa renda le persone aggressive. Oddio, se ti guardi intorno effettivamente... Sei che mangiano molta carne rossa. Mangiavo molta carne rossa. Il coniglio invece niente, il coniglio rende mito. È bianca, quindi si può mangiare. Va bene, quindi evitate di mangiare la carne rossa. Esatto. E te pareva la donna? A mobili, ma perché te metti gli occhiali? Ma state zitta, frascicone, ma come io sto andando tanto bella regolare, te che fai, mi inchiodi? E inchiodo sì, c'è star semaforo, tu guida la cazzo le cane. Ma tu guarda che mi ha combinato sta pagottara. Ma di che, amore, ma se manco te l'ho toccato sto cagatore di macchina. Modera, perché se parlavo dei cessi allora stavo a parlare di te. Ma come te permetti, a pecoraro, a caffone. Pecoraro a me, ma te vedi che se te metti le brelle pare Giuliano Ferrara. Ma vedi andatene a broccole. Ma fallo finire che sei andata dopo. Ma sta morire ammazzata, te chi tu dice, ma tu guarda sta budellona sul mondo. Cristian De Silca e Nadia Rinaldi che si contrappongono nelle figure tipiche dell'aggressività urbana. Poi questi due si fidanzeranno, superando di amarsi e piacersi tantissimo. Walter, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Io chiamo per raccontare la mia esperienza. Lei come è attrezzato in macchina? Come sono apprezzato? Attrezzato, sì. Attrezzato, non sono attrezzato. Diciamo va mani nude. Ho un ombrello che può sempre tornare utile. Ombrello, lo dà di punta, mica male, in un occhio. Sì, è un ombrello, sì, abbastanza tosto. Quindi lo porta apposta anche i giorni di sole perché non si sa mai. Beh, certo, poi comunque, insomma, l'ombrello lo tiene in macchina, non si sa mai. Meglio tenerlo davanti che dietro, comunque, così uno sta più tranquillo. Sì, infatti, quindi diciamo che mi nascondo con l'ombrello, faccio finta di avere un bastone. E cosa le è accaduto? Beh, io allora premetto che 5 anni fa abitavo in montagna. Abitavo in montagna, ci ho abitato 4 anni, non per lavoro, poi per motivi familiari, così ho spostato la mia vita affettiva giù di nuovo nella piana, come la chiamo io, e per lavoro sono venuto a Genova. Io tutti i giorni vengo a Genova, infatti prima ho sentito il tassista di Genova e mi sono ritrovato. Giro tutta Genova, ma veramente tutta, da Voltri a Nervi a Ponte Decimo, Campomorone, Molassana, tutta. E Genova è una città indegna. Io i primi 4 mesi pensavo di uscirne pazzo, nel senso non potevo accettare il fatto che ci sono motorini che ti passano da destra senza senso, cioè veramente cose pericolose. Io mi sono imposto la regola di dopo 4 mesi non ti incazzare più, perché sennò qui non esci più, cioè ti esaurisci. Infatti non mi incazzo, in modo molto filosofico la prendo così, e soprattutto ho imparato a Genova che devi andare dritto, perché se ti sposti di 50 centimetri puoi buttarne uno giù a destra che ti sta sorpassando tra il tuo piede e le tue ruote. Sì, ma questo con l'aggressività cosa c'entra? Lei l'ha contenuta, no, l'elabora? No, questo è quello che succede a Genova. E poi ho episodi, l'ultimo, perché ne ho diversi in 5 anni, me ne sono capitati, l'ultimo, un motorino da destra mi sorpassa, io sarò stato anche distratto, ma niente, mi accosta, mi si inchioda davanti, scende, e incomincia a sultarmi dicendomi ti ammazzo. Io avevo il finestrino mezzo giù, non faceva ancora caldo, e ho fatto in tempo a tirarlo su e a chiudere, perché ho visto che questo qua è schizzato, classico tipo lo inquadri, poi quello che non ci sta, poi dopo un po', insomma, che giri li vedi, quelli che sono aggressivi sulla strada, scende giù e mi picchia sul vetro, ma lo voleva sfondare sto vetro, ti ammazzo, scendi giù. Allora a un certo punto, molto calmo, non gli ho detto niente, ho preso il cellulare, ho fatto il numero della polizia, gliel'ho fatto vedere, questo qua è scappato, se n'è andato via. Ma questo è soltanto l'ultimo, ce n'è altri in 5 anni, 2 ragazzotti mi volevano picchiare, uno mi è venuto incontro, e avevo ragione oltretutto, tra l'altro avevo ragione, e quindi queste sono le mie esperienze. Comunque non è mai sceso alle mani, lei di quelli che si contengono? No, i primi 4 mesi devo dire che volevo scendere un paio di volte, perché non accettavo quello che stava succedendo, mi sono trovato, ripeto, dalla montagna, che cioè non c'è neanche un semaforo, in questa città che è senza regole, a cui secondo me la metà di quelli che vanno in scooter va tolta la patente, ma proprio vabbè, così. Lei ha un fatto privato con gli scooter, questo capisco, diciamo, ha individuato il suo nemico quando guida nello scooter, questo è comprensibile, però ci fermiamo adesso per le informazioni della borsa. Quello che mi piacerebbe sapere, quali sono, diciamo, le regole, gli antidoti, sia le regole di battaglia e di combattimento per chi seguire questa strada, sia le regole di per disinnescare l'operazione cruenta e disinnescare il momento di ira. Quando qualcuno vi bussa al vetro, quando qualcuno vi fa dei segni, qualcuno dice scendi dalla macchina, qualcuno vi fa il gesto del puppa, delle corna e via dicendo, come è meglio comportarsi se uno non vuole scendere alla rissa? Melog, la realtà condivisa. A un certo punto scatta il giallo, allora tu vedi la manina che freme, scende giù, terza, quarta, seconda, retromarcia, non sanno neanche guidare, cominciano ad andare a saltelloni, vanno ancora più piano di prima, ma quel tanto che basta, perché scatti il rosso, loro passano e tu. Io, che non sono Gesù Cristo, non so dire perdonali perché non sanno quello che fanno. Io mi sogno la mia vendetta. Schiaccio un bottone, mi si apre il radiatore, optional, esce fuori un bazooka. Una bocca di fuoco spaventosa, punto, schiaccio. Questo è l'apoteosi del sogno dell'automobilista violento da parte di Joel ed X. Pigi un pulsante, si apre un bazooka. Invece no, ci si deve accontentare di piccoli oggetti d'uso quotidiano, martelli, ombrelli, bastoni, blocca sterzo. Avete sentito che c'è un vasto campionario di oggettistica da transumanza urbana di cui si dotano gli automobilisti italiani, ma molte volte non si fa nemmeno con volontà, uno lascia così un'accetta sul sedile posteriore, dice mai la compera in ferramenta, dice ci metto a posto l'orto, poi la lascia lì. Questa mattina stiamo parlando del tasso di aggressività in automobile, stiamo parlando delle due vie da seguire se uno fosse colto da questa sindrome, come attaccare per primo, attaccare subito e con che armi attaccare, o come cercare di evitare la rissa e salvare la pelle. Omar, buongiorno. Sì, buongiorno. Ci può dare che consiglio ci dà lei, Omar, su quale delle due vie? Io ho provato a star tranquillo. Però quando comunque un ragazzo come me è andato negli insulti personali, sono sceso anch'io dalla macchina. Che tipo di insulti? I soliti alla madre, alla sorella, questi qua? Sì, soliti, però... Ma io sono fortunato, solo fratelli. Un po' assurdo, una situazione un po' assurda. Quello che posso dire agli ascoltatori... Come ha reagito lei, Omar, quella volta? Io ho reagito che gli ho fatto notare che aveva fatto un sorpasso un po'... Maleducato. Quindi sì. Allora esiste il sorpasso maleducato? Io ieri sono caduto alle nuvole, dico ma che vuol dire sorpassare in maniera maleducata? Poi andavo dritto. In quel caso specifico c'era due corsie belle larghe, io ero comunque bene sulla destra e questo qua mi ha fatto quasi il filo. Ah, l'è passato troppo vicino. Sì, sì, proprio, ho avuto quasi proprio l'impressione che mi toccasse la macchina. Ah, ecco, ho capito, a volte succede, automobili ci sono che non hanno grande visibilità queste ultime. Beh, comunque... E alla fine lei cosa ha fatto? Niente. Gli ha fatto segno di fermarsi? Come è riuscito? No, più avanti al primo semaforo, tranquillissimamente, gli ho fatto notare, gli ho detto guarda, sta un po' più là. E lui niente, ha iniziato a borbottare, è saltato giù subito dalla macchina. E ha cominciato a dire tua sorella, queste cose? Sì, no, ha iniziato lì contro di me all'inizio, infatti facevo finta di nulla, perché comunque non ho voglia di aver problemi. C'era il tipo nervoso, quello che subito fa il nervoso. Sì, sì, subito, questo qua mi sa che proprio cercava. E quindi lei che ha fatto, Omar? Io alla fine sono sceso, quando ha iniziato a... Ma quando uno scende, deve essere pronto a combattere, non è che scende? Infatti c'è stata una colluttazione. Con le mani, vi siete dati botte con le mani? Sì, con le mani, anche lui era a mani. Ma chi ha cominciato? Entrambi, perché comunque io appena sono sceso lui mi ha spinto contro la macchina poi io ho continuato a reagire. È andato di capoccia lei? Quasi sì. Vabbè, alla fine che vi siete fatti? Date la mano oppure finita così? No, alla fine ho avuto la meglio e me ne sono andato. La meglio significa che l'ha steso a terra? Sì, più o meno sì. Va bene. Comunque lui alla fine ha capito quale prendeva e basta. Ha capito, quindi un'altra volta impara. Va bene, Franco. Buongiorno Nicoletti. Eccoci qua. Dopo 41 anni di vita a Milano, 30 da tassista, però dopo io con un paio di cosucce così basta. Ma lei cos'ha, il viva voce in questo momento, Franco? La sento sì, male. Sì, non può parlare col viva voce, sente malissimo. Si ferma, se no non si sente nulla. Eccomi. Cioè, l'ha recuperato, è morto? Niente, purtroppo Franco si è autoeliminato. Francesca. Buongiorno. Pronto? Lei come si comporta? Allora, no, io non parlavo di me. Io direi, i signori maschietti, specie se con famiglia a bordo, se non siete abituati al lavoro di strada, nel senso di scendere, di fare palestra, eccetera, non lo fate, perché chi sta a bordo con voi poi, come è successo a me, due volte con un maritone, io sono piccolina, ho un maritone grande che gli girano spesso i ball. E l'ha presa. Non ha fatto neanche tempo a scendere, se non scendevo io, gli staccavano... Gli staccava, cioè non solo la testa, racconti l'episodio però, racconti l'episodio. Allora, lei andava col marito, il grande, lei piccola, in macchina, con i figli pure? Allora, la prima volta ero senza figli, era ancora fidanzata e molto innamorata. Ha fatto due curve nel sottopassaggio di Porta Pia, per capirci. Sì. Ha passato con la sua fulvetta una macchina con due buzzurri a bordo che sono molto offesi. E è andato avanti, questi qui l'hanno ancora superato. Una volta per sorpasso maleducato. Vede, a me mancava mancava questa fattispecie. Ah, ma gli ho proprio staccato le orecchie, nel senso che la fulvietta era la fulvietta, eh. Ah. E questi sono molto offesi, si sono fermati al semaforo, lei conosce Roma, quindi sa che la complanare della centrale della Nomentana, sì, stretta. Sono scesi e non ha fatto nemmeno in tempo a chiudere a manovella il finestrino. Perché ancora finestrini a manovella. La mano dentro per staccargli il collo. Sono dovuta scendere dall'altra parte e prendere la calcione negli stinchi, col rischio mio, per dire lasciali in pace, e alla fine è riuscita a chiudere il finestrino e siamo scappati. Lei è risalita? La seconda volta eravamo da Fiumicino, mi è venuta a prendere a Fiumicino con il bambino di un anno e mezzo e mia suocera in macchina, due colleghi sono poi da morire. Lui non fa mai nulla, lui va dritto, lui fa la sua strada perché lui è il vendicatore della sorte. Tre buzzurroni sempre grossissimi in macchina. Se li scegli anche grossi. Che quelli ci sono che fanno i pattoni. Certo. Momenti facevano un frontale con l'autobus perché lui non ha tolto il piede dal gas, perché bravo a guidare, non ha tolto il piede dal gas. Io chiamavo la polizia, questi dicevano no, vi dovete fermare perché se no non riusciamo a rintracciarvi. Ma cosa ci fermiamo che ci staccano tutte le orecchie? Alla fine si sono fermati, mia suocera piangeva, il bambino strillava, le signore non so mai più se mi hanno più tolto il saluto, non vogliono più vedermi nemmeno. E mi hanno strappato, la mia macchina era lo specchietto, l'antenna, eccetera eccetera. Io ho detto per cortesia. Ma questo pensavo che accadesse solo a Fantozzi. Succede... No, succede anche a mio marito. Io ho detto io vado con la mia macchina e faccio le mie cose, così almeno sto tranquilla. Però sono limitati a danneggiare l'auto, hanno salvato suo marito questa volta. Beh sì, quando mi hanno rotto tutta la macchina me ne prego io del marito, potevano prendersi il marito e lasciarmi la macchina. Vabbè, questo intera, è chiaro, lei ha un marito rissoso. È chiaro, Francesca. Bruno. Senti, buongiorno. Lei come ha operato in una situazione del genere? Io di solito corpi contundenti a bordo non li tengo, sono un camionista e metro totali, insomma, ecco, tutto qua. Però nemmeno lo svita bulloni delle ruote del camion? Sì, ma è scomodo, lasciamolo là. Lasciamolo la croce qua, sì, è difficile. Sì, sì. Io ho capito un paio di fatti, una volta di una macchina è venuto fuori da uno stop diretto, che se non freno succede un casino. Poi c'era il classico semaforo più avanti, sono sceso, mi sono sdraiato sopra il cofano della macchina, non so quanti danni li ho fatti sul cofano, questo qua era chiuso dentro, il poverino, non so. Ha sdraiato sul cofano, questa è una tecnica. Ho cominciato a pugni sul cofano. Ha steso davanti sul cofano, così a crocifisso praticamente. E un'altra volta un ragazzino che... Ma scusi, no, un attimo solo, devo capire bene, quando uno si stende sul cofano, con cosa colpisce? Con i pugni sul cofano. Ah, così steso i pugni, però non può usare le gambe in quel momento, i calci no? Di far niente questo qua, sinceramente, perché quindi c'è un potere deterrente di vedere l'uomo steso sul cofano. Dopo lì per lì, quello di me che si è spiaciuto perché ho visto che era terrorizzato, però lì per lì, se io non frenavo, succedeva che io lo ammazzavo, perché è venuto fuori dritto da uno stop, non era neanche rallentato. Quindi dopo aver preso a pugni il cofano, cosa fa? Sì. Niente, poi sono andato via, quando è scattato il verde, lui è andato via e sono andato via per i cavoli miei. Quindi questa è una tecnica nuova, una tecnica che unisce il deterrente psicologico all'offesa fisica. Sì, che dopo un'altra volta, sempre un altro, che è venuto fuori per un sorpasso, che io se non frenavo andava a sbattere contro l'altra macchina, c'era sempre il classico semaforo più avanti, questo qua come ringraziamento mi ha messo fuori il suo bel classico dito dal finestrino. Ci vado lì con tutto. Ma cosa l'ha fatto il dito dal finestrino? Il segno del dito? Sì, io le dito che doveva mandare a quel parlare, che dopo che io ho frenato per salvarli la capote. E quindi lei come ha operato? E poi una volta ho operato diversamente, con tutte e due le mani gli ho tirato giù il finestrino e di fianco c'era suo papà, presumo, perché era un ragazzino giovane, che gli stava dicendo, gridava, te l'avevo detto, te l'ho fatto, però era terrorizzato suo ragazzino, sono andato via e gli ho detto questo qua. Ma lei ha una forza bestiale però, come fa a tirare? No, a quel momento lì non te ne senti, non è che sia... Quindi se uno prende il vetro e il finestrino, lo tira giù violentemente, scende quello. Ma non lo so se l'ha aiutato lui o cosa, io so che l'ho tirato giù con le mani, non lo so se lui mi ha aiutato. Questo no. E quindi cosa ha fatto poi? E poi niente, poi ho visto che suo padre lo stava rimproverando, penso sia stato suo papà. Si è impietosito. E allora l'ho detto, lasciato stare, ho detto, è buona anche quella romanzina lì. Poi alla fine però di questo successo qualche anno fa, ho capito una cosa, non ne vale la pena. Ah, certo. Questa era la premessa, no? Io sono un camionista, sono a Milano tutti i giorni, sono di Vicenza ma sono a Milano tutti i giorni, perciò ne vedo di tutti i colori. Se tu parlassi tutte le reazioni, dovresti scendere col carabinico in ogni modo, non ne vale la pena. Non ne vale la pena, però lei, le volte che le è capitato, ha messo a punto le sue tecniche di assalto cruento. Fermiamoci un istante, informazioni del traffico, riprendiamo, vedo che sono sommerso alle telefonate di persone che consigliano tecniche di attacco e di difesa, quindi questa mattina faremo radio di servizio. Melog. La realtà condivisa. Era un ragazzo tranquillo, di buoni modi, poi però quando saliva in macchina era una furia, cominciava a imprecare in dialetto pugliese, andava, correva, non rispettava la precedenza, non neanche uno stop, era terribile, terribile. Con lei o colui che muta la propria andatura inerziale pur di sfavorire l'inserimento in corsa o in carreggiata di un'altra autovettura è gravemente malato. Dunque, mi arrivano consigli che io do per correttezza rispetto a chi ha preso la briga di darmeli, però chiaramente prendo le distanze da questa maniera di comportarsi. Allora, mi consiglia un ascoltatore via SMS: non servono attrezzi, quando sei davanti acceleri un po', poi inchiodi, quando si avvicina dopo riacceleri e vai, prende una paura che non riesce a reagire, quindi facendo dei finti tentativi di investimento si evita di portare oggetti nell'abitacolo che potrebbero causare i rigori della legge, che non si possono portare armi improprie dentro l'automobile, però facendo il tentativo, fermando, accelerando e frenando, si spaventa l'antagonista. Poi diciamo un consiglio che vi do: peperoncino, mantenete la calma, quando l'aggressore vi si avvicina glielo spruzzate in faccia e arrivederci. Krav Maga tutto spiano. Krav Maga penso che sia una specie di punteruolo che ci si porta dentro, una cosa così. Roberto. Sì. Allora, lei, sì, ci dia i suoi consigli, visto che mi pare che abbia un'esperienza. Le dico, è un episodio, per la verità, di una quindicina d'anni fa a Torino. Io ero già anziano allora e mi ero stato sorpassato da un automobilista al quale, per la verità, dal finestrino avevo fatto uno sberleffo. Questo si è fermato, abbiamo avuto una breve colluttazione. Lei era lo sberleffeggiatore praticamente, lei era stato? Sì, ho fatto uno sberleffo. Con la lingua, un segno con la lingua. Sì, ma... Vecchia scuola. Me ne sono pentito subito, perché questo è un bravo ragazzo, soprattutto in questa breve colluttazione è accaduto che gli si è rotto il cinturino dell'orologio e lui guardava disperato il suo orologio per terra e aveva il cinturino in mano. Sono rimasto talmente diciamo mortificato, dispiaciuto, sì. E poi sono di sinistra, questo è un operaio che stava, gli ho detto: senta, mi dispiace molto, mi dice che cosa posso darle in cambio? Ma no, scusi, ma lei mi ha sorpassato in modo anomalo, ma lei mi ha fatto uno sberleffo, insomma ci siamo stati avete fatto pace, vabbè, in fondo non era sincero, che sincero veramente è stato un livello superficiale di scontro. Il Krav Maga è un'arte marziale, avevo confuso con un altro attrezzo. Andrea. Sì, buongiorno. Sì. Ecco, io devo dire che questo tipo di discussioni a me preoccupano veramente tanto, perché... Sì, sono all'ordine del giorno, sono da spago è finito. Esattamente, e io mi fa piacere che lei ne parli in radio, anche perché questo è un problema molto serio che secondo me dovrebbe essere affrontato anche dalle istituzioni. Sai, posso dire una cosa? Io ne parlo non perché questa mattina abbia voglia di dir facezie o stare relax, perché secondo me parlarne serve a dare la dimensione reale del paradosso di trovarsi in situazioni che uno deve fare a botte semplicemente per un sorpasso. Ma credo un automobilista, io ho 46 anni, ma anche un 18enne che ha appena preso la patente, io credo che poco tanto si sia comunque trovato in situazioni così, a volte anche pericolose, perché anch'io devo dire sono stato insultato e a mia volta ho insultato. Perché uno che va in macchina o subisce un torto o comunque lo sì, commette. Ma subire mica che uno poi dopo sta male, ma chi se ne frega. Cioè, andiamo avanti, però vorrei sapere l'episodio di colluttazione a cui è stato allora, lei. Allora, io ho assistito a un episodio di colluttazione a un semaforo dove estate praticamente una persona era ferma al rosso, l'altro automobilista arrivava dalla parte opposta, ma non dalla parte frontale, arrivava da sinistra, quindi ha fatto praticamente ha stretto troppo la curva e ha sfiorato la macchina che era ferma al rosso. E quindi lei giustamente cosa ha fatto? Io ero fermo, ero lì perché ero lì vicino, ero a piedi. Praticamente questa persona ha detto: ma stai un po' più in là, no? Chiaramente questo cosa ha fatto? Si è fermato si è fermato, è sceso dalla macchina, ha aperto la porta dell'altro automobilista che era fermo al rosso e gli ha tirato un cazzotto proprio in faccia, proprio che ho detto, questo l'ha massacrato praticamente. Sì, l'ha proprio massacrato. Trasformandolo in una maschera di sangue, immagino. Ecco, questo poi molto tranquillamente è risalito sulla propria auto e se n'è ripartito. Beh, quello è un professionista, è chiaro. È un professionista del crimine. No, in questo caso sì. Io sconsiglierei molto... se uno proprio vuole evitare di aprire lo sportello, aprire il finestrino, anzi uno metta le sicure, se ne stia chiuso dentro, sta più tranquillo, meglio se la prenda con la macchina che con la nostra faccia. Giuditta. Buongiorno. Allora, io volevo raccontare una cosa che mi ha raccontato una mia amica, che le è capitato che aveva appena perso la patente, era molto giovane, molto mite, molto tranquilla, e poi aveva una 2 cavalli dove non ci sono le sicure, non c'erano le sicure, sì, allora. E a un certo punto doveva andare a scuola, una supplenza, è arrivata a una strada a senso unico dove si mettevano però altre macchine. Un camion gli ha tagliato la strada e questa mia amica, tutta tenera, giovane, carina, gli ha fatto un gestaccio terribile. Tipo? Camionista, con la mano e con il braccio piegato. Ah, il gesto dell'ombrello? Esatto. E le mani, scusi, ma il volante come faceva a tenerlo se faceva il gesto? Perché questo camion aveva tagliato la però strada. Due cavalli c'aveva un cambio molto particolare che veniva davanti allo sterzo, non era una macchina facile da guidare. Però lei ha fatto questo gestaccio, il camion è fatto da una donna, è paradossale, uno potrebbe anche abbozzare, una carina, con i capelli lunghi, cioè era stato proprio terribile. Questo camion si è messo di traverso e poi è sceso nella nebbia delle 7:15 di mattina. Ha visto scendere un camionista che fumante, terribile, enorme, tutto fumante nella nebbia. Beh, pensi che visione erotica, fumava per il sudore. Lei si è messa ferma, così è arrivato il camionista, lei l'ha guardata e ha detto scusi, e lui è tornato sul camion. E lui è tornato, però, finita così? Eh sì, però questa mia amica ha scoperto che dopo le capitava proprio così, diventava aggressivissima. Quindi ha scoperto una sua vena aggressiva, sì, quando stava al volante. Vena aggressiva che non credeva di avere e che ha mantenuto nel tempo. Anche. Sentiamo Daniele, ultima telefonata. Daniele. Buongiorno, allora niente, io stavo entrando in una rotonda un po' trafficata, sa come ci si imbottiglia, no? Io sì, poi le rotonde sempre un enigma, c'è sempre l'umarel che non sa come si usano. Avevo la precedenza, sono andato dritto per la mia strada, evidentemente uno che si metteva pensava di aver subito un torto, quindi ho visto che mi ha inseguito nello specchietto, mi ha superato, mi ha stretto, mi ha tagliato praticamente. No, io mi sono subito incavolato leggermente, gli ho fatto i flash e questo mi ha fatto il dito. Dunque, lei ha lampeggiato. Sì, sì, che è già un sì, segno di provocazione lampeggiare. Beh, lui ho risposto alla sua provocazione, lo ammetto. E lui il dito ha fatto? Lui mi ha fatto il dito, allora sono diventato Michael Douglas in un giorno di ordinaria follia. E cosa ha fatto? Sono diventato un agente segreto, l'ho seguito da lontano, ho aspettato che parcheggiasse, che andasse nel suo ufficio, eccetera, eccetera, e poi gli ho lasciato una firma sulla macchina. Quindi poi gli ha lavorato lo sportello con la chiave. Beh, questo, la vendetta è un piatto che si mangia freddo.